Letture di Radio 24. Da Carl Jung ad Aldous Huxley, da Walter Lippmann ad Harold Laswell, fino dai primi decenni del secolo, numerosi intellettuali e filosofi hanno cercato di analizzare il mondo della comunicazione di massa, alla ricerca di simbolismi occulti e altri strumenti utilizzati per plasmare le opinioni e controllare la mente. I mass media sono forme di comunicazione ideate per raggiungere un pubblico il più vasto possibile e annoverano televisione, film, radio, giornali, riviste, libri, dischi, videogiochi e internet. Nel secolo scorso si sono condotti numerosi studi volti a misurare gli effetti dei mass media sulla popolazione, con l'intento di scoprire quali fossero le migliori tecniche per influenzarla. La comunicazione di massa rappresenta uno strumento necessario ad assicurare la funzionalità di una grande democrazia. Altrettanto dicasi nel caso di una dittatura. Tutto dipende dall'utilizzo. Laswell spiega che per capire il significato di un messaggio si dovrebbe prendere in considerazione la frequenza secondo la quale determinati simboli compaiono nel messaggio, la direzione verso la quale i simboli tentano di indirizzare l'opinione del pubblico, nonché l'intensità dei simboli utilizzati. Laswell indica che onde analizzare adeguatamente un prodotto dei media, risulta necessario considerare chi ha realizzato il prodotto, a chi era destinato e quali erano gli effetti desiderati del prodotto in questione sul pubblico fruitore. Le analisi di video e film presenti su The Vigilant Citizen assegnano una grande importanza alla questione di chi sta dietro i messaggi comunicati al pubblico. Per descrivere questo ristretto gruppo di elite che governa in modo occulto le masse, spesso si impiega il termine illuminati. Sebbene suoni alquanto caricaturale e cospiratorio, tale termine descrive in modo appropriato le affinità dell'elite con le società segrete e il sapere occulto. Il consolidamento delle grandi società dei media ha tuttavia determinato una standardizzazione dell'industria del settore culturale. I programmi televisivi che seguiamo, la musica che ascoltiamo, i film che vediamo e i quotidiani che leggiamo sono tutti prodotti da 5 grandi società. I proprietari di queste conglomerate hanno stretti legami con l'elite mondiale e sotto molti punti di vista sono l'elite. Possedendo tutti i possibili canali provvisti del potenziale di raggiungere le masse, tali conglomerate dispongono del potere di creare nelle menti delle persone una singola e coesiva visione del mondo, generando una standardizzazione del pensiero umano. Artisti, creazioni e concetti non conformi al modo di pensare convenzionale vengono spietatamente respinti e dimenticati dalle conglomerate, il che a sua volta li fa virtualmente scomparire dalla stessa società. Tuttavia, le idee ritenute valide e desiderabili per essere accettate dalla società vengono abilmente smerciate alle masse perché diventino norma ovvia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Vigilant Citizen, Teorie sul controllo mentale e tecniche impiegate dai mass media, dal numero 1 2011 della rivista Punto Zero, pubblicata dalla Nexus Edizioni.